finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, è solo chiacchiere distintivo. Troppe luci accese qua, bisogna spegnere qualcosa, eh. Vai, ci sentiamo a nostro agio a questo punto. Molto meglio, l'atmosfera molto adatta per un pezzo di Leopoldo Mastelloni. No. Vabbè, la voce non l'avete riconosciuta, ma il tema, il tormentone che ormai ci segue da 3 anni a questa parte. L'avrete riconosciuto, parleremo anche di questo. 25 o'clock ai controlli, onda rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Ringraziamo tutti e tutte coloro che sono venute alla SNIA venerdì scorso. Una bella iniziativa, ringraziamo Iguana e Fleur de Mal che hanno suonato veramente in maniera emozionante in quel della SNIA. E poi la serata è andata, come sapete, avanti. Chi ha seguito la diretta o chi era lì per molto tempo ancora con il DJ set. Dark Electro Wave del buon Inoctibus Paris, insomma. Un ringraziamento a tutte e tutti voi per il sostegno alla radio, avete sentito. Poi magari durante la trasmissione ne parleremo. Degli appuntamenti anticarcerari, essenzialmente come si confà ogni dicembre dell'anno, ma dovrebbe essere o è in parte per tutti i mesi dell'anno, non con questa intensità dovremmo forse moltiplicare le nostre forze in tal senso. Questa sera, come già in parte annunciato la settimana scorsa, interventi, scaletta ricca e poi sbrago finale. Dicevamo, oggi è l'11 di, ancora per qualche minuto, per qualche tempo, è ancora l'11 di dicembre, domani 12 dicembre è previsto, dovrebbe essere prevista la sentenza di appello per uno dei processi riguardanti le vicende del 15 ottobre. L'accusa è quella di devastazione e saccheggio. Fra qualche istante avremo modo di contattare una compagna che ci darà informazioni più dettagliate al riguardo, interloquiremo con lei. Poi, come già anticipato anche dal buon Elettrodo, prenderemo mosse da un concerto che ci sarà, anche quello fra non molte ore, e avremo modo di ricontattare di uno qua in studio, insomma, vecchi compagni, amici di Onda Rossa. Vediamo se appunto Danilo Fatur ci deve mandare un audio, ancora non ci è arrivato, vediamo se arriverà, e riusciremo quindi, se non a contattarci direttamente con lui, comunque ad avere una sua testimonianza audio. E comunque c'è le tre band c'è sta Marco di P38 Punk, che avrete già riconosciuto, che è una presenza. Periodica. Qua negli studi avete sentito quindi gli spot della Scarcerando, una modalità di finanziamento della radio, la radio che continua ad avere. Ci è arrivato qualcosa a quanto sembra. Almeno a cercare di capire dai gesti. Diciamo una radio che vive grazie al vostro contributo anche economico. Vive dal 1977 grazie a questo, a questa vostra partecipazione. Vi ricordiamo perciò il 61 80 40 01, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Dicevamo, da intestare a Laboratorio Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00185 Roma San Lollo, 06 491750, recapito telefonico www.ondarossa.info, il sito ondarossa@ondarossa.info, la mail per le vostre comunicazioni 25 o'clock@ondarossa.info, per molestare in questa serata anche i sottoscritti. We'll be right back. is called the Deja Vu Experience. Ed eccoci qui, siamo in diretta con la compagna che appunto ci ricorderà che domani ci potrebbe essere la sentenza del processo d'appello per uno dei tronconi del processo del 15 ottobre 2011. Ci sei? Sei in ascolto? No, non è in ascolto perché non l'abbiamo... Eccoci. Scusa, ti ho tagliato le prime cinque parole, se puoi... Non ti preoccupare, la ringraziamo voi, quindi niente di più. Benissimo. Allora, dicevamo, domani 12 dicembre, una data poi particolare, insomma, per tutte le compagne e i compagni che ricordano, condividono, insomma, la storia dei movimenti in questo paese. Comunque questa data per certi versi, per molti versi nefasta, si aggiunge appunto quest'altra roba della sentenza del processo 15 ottobre, almeno di uno dei tronconi, no? Perché già altri tronconi del processo, mi riferisco all'azione antifascista d'Eramo, eccetera, sono andati a conclusione già negli scorsi mesi. Sì, negli scorsi anni, sì, questo è l'ultimo e appunto, insomma, è una vicenda lunghissima. Spiace soffermarci poi semplicemente sul dato tecnico, perché purtroppo oltre all'appuntamento previsto a Roma in aula al fianco delle persone che passeranno dei guai per quella giornata di lotta, c'è soltanto un appuntamento, a quanto so, in piazza a Bologna nel pomeriggio, proprio facendo un po' riferimento ovviamente a un 12 dicembre che fa parte di una storia davvero stragista di questo Stato, e ovviamente in solidarietà ai ribelli del 15 ottobre, a chi insomma si ritrova inguagliato anche in altre vicende legate ad altre giornate di lotta, perché come sapete, insomma, il reato di devastazione e saccheggio è passato paro paro per colpire ormai ogni giornata di lotta abbastanza conflittuale, come sapete, insomma, 15 ottobre, Cremona, così come la giornata di lotta al Brennero, insomma, ormai fa parte della cassetta degli attrezzi dello Stato. Per quanto riguarda le giornate di piazza, poi ci sono tanti altri strumenti che lo Stato utilizza a seconda di chi è il suo nemico. Abbiamo i reati associativi da una parte, poi tutto quello che riguarda i blocchi stradali, i picchetti, insomma, abbiamo visto inasprirsi anche le pene riguardo questi strumenti di lotta, ed ecco qua che si arriva un po' alla vicenda del 15 ottobre. Si arriva, ecco, diciamo che ne parlo per rispetto nei confronti di chi si trova inguaiato o inguaiata, perché di parole in questi 8 anni sono state dette, forse la radio è stata la prima, sin dalle ore in cui si era già in strada, ad esprimersi in maniera chiara, netta, al fianco di chi stava subendo già gli arresti in piazza, ma anche rivendicando quella rabbia, quella conflittualità. Quindi si arriva a otto anni di distanza, con un secondo grado per questo terzo troncone, che dovrebbe chiudersi nell'udienza di domani a mezzogiorno dentro la corte d'appello del tribunale di Piazzale Clodio. Dico dovrebbe perché già lì, insomma, chi si occupa di decidere per la vita altrui ha calendarizzato un'udienza straordinaria per sabato mattina, insomma, hanno intenzione di concluderlo al volo. Se non ci riescono domani, lo concludono sabato mattina alle 9. Quali sono la scaletta, diciamo, che è prevista per domani, anche per capire poi se riescono a farlo appunto nelle prossime ore? Guarda, basterebbe tecnicamente parlando dentro un'aula del tribunale per capire come lavorano questi soggetti che decidono per le vite di decine e decine di persone durante l'arco di una giornata. Domani dovrebbe parlare l'avvocato difensore di o due o tre compagni, se non sbaglio, e basta. Poi dovrebbe avere diritto di replica il PG, e poi si dovrebbe arrivare alla sentenza. Però, appunto, quando siamo all'ultima udienza, rimandavano molte udienze di quella giornata alla stessa di domani, quindi non sappiamo, insomma, tempi tecnici, quali saranno proprio i slot temporali entro cui infilare il processo, insomma. Sì, è proprio questo il fatto. Dopodiché, appunto, o domani o sabato mattina si conclude questo secondo grado, poi resterebbe unicamente la Cassazione. Quello che c'è da dire, e la faccio molto breve, è che per ora il PG ha fatto delle richieste di condanna che sono lievemente più basse rispetto a quelle del primo grado. Questo non significa che poi la giuria non può decidere altro, però l'ha motivate dicendo di prendere in considerazione alcune attenuanti, tra cui la suggestione della folla in tumulto e quelle che sono i valori anche legati alla Costituzione, di quelle che riguardano le rivendicazioni di chi va in piazza con l'estrema sinistra, così molto generalizzando, il diritto al lavoro, il diritto alla casa e via dicendo. Quindi, viaggiando su queste due attenuanti e ritenendo il reato di devastazione e saccheggio legato a un codice fascista, ha detto: comunque io sto reato lo uso e vi propongo delle condanne un po' più basse. Quindi si dovrebbe arrivare bontà loro, come si direbbe. Come? bontà loro, come si sì, ma è questo, è un, diciamo, questo atteggiamento così democratico va preso in considerazione, va analizzato anche per quanto riguarda tante altre procure. È pericolosissimo, è un modo per far passare questo reato comunque in ogni caso nei confronti di chi ha partecipato a quella giornata di lotta. Certo, sapere che forse si riesce ad abbassare di un po' le condanne sicuramente ci alleggerisce, o comunque sicuramente inciderà notevolmente sulla vita di chi poi subirà una condanna, però ecco, appunto, il reato rimane, non è stato assolutamente derubricato, e il PG appunto ritiene comunque di tenere devastazione e saccheggio, che vabbè, poi i discorsi ne abbiamo fatti tanti riguardo a questa tipologia di reato, che però essenzialmente è un reato che ha preso, come dicevi te, negli ultimi tempi proprio la dimensione della repressione delle, di questi episodi di lotta, perché purtroppo forse questa è la diciamo la crudezza politica di quegli anni e degli anni di adesso, che sono rimasti episodi, insomma non si è riuscito a dare continuità politica a quel tipo di pratica, e per cui ecco, rimane lì il reato di devastazione e saccheggio. Una domanda: assolutamente, sì, quante persone in questo troncone sono interessate, così anche per dare un numero? Allora, di... il discorso è questo, che sono andate in prescrizione dei reati cosiddetti minori rispetto a quello che è quello di devastazione e saccheggio nel tempo, quindi ci dovrebbero essere 11 persone che vanno a condanna. Tre di queste, dentro l'aula del tribunale, il PG ha dichiarato che hanno fatto un concordato, quindi hanno concordato l'avvocato difensore e il PG sulla richiesta di condanna. Quindi questo significherebbe che poi, cioè, infatti non hanno avuto una difesa queste tre persone imputate. È un fatto inaspettato, anche chi ha seguito un po' da vicino il processo non l'aveva ben chiaro questa scelta di tre imputati, però di fatto così è, ma riguarderà anche loro la sentenza, e soprattutto sarà poi la giuria a dover decidere se questo concordato è un concordato valido o meno. Insomma, aspetta comunque a loro l'ultima parola. C'è una proposta di condanna che anche lì è lievemente minore della richiesta della condanna che invece c'è stata in primo grado, ecco. Quindi si parla di, per le richieste del PG, di richieste di condanna che vanno da 6 anni e 6 mesi, un po' all'ingiù, passando per 4 anni, 3 anni, 2 anni e 8. Insomma, sono diversificate le richieste di condanna, ma quello che c'è da dire è che c'è anche chi ha già scontato, come nel caso di un compagno di Canzone Antifascista Teramo, già 5 anni per devastazione e saccheggio su quello che era il secondo troncone, ora si ritrova anche nel terzo troncone con anche lì una richiesta di condanna. Quindi insomma, stiamo parlando di vicende complicate che è anche molto difficile riassumere, ecco, in poche parole. Quello che c'è sicuramente da tenere presente, ecco appunto, che come dire, questa roba suonerà come un monito per tutti. Se il movimento non è stato capace in maniera corale di rivendicarsi quella giornata, ma l'abbiamo visto già dai momenti in piazza, e se non è stato capace neanche di affiancarsi alle persone che hanno pagato e pagheranno per quella giornata di lotta, questa roba qua risuonerà in maniera pesantissima, sicuramente continuerà a risuonare come tanti altri aspetti legati alla repressione, per quelle che riguardano poi le scelte le scelte su che tipo di giornate organizzare, come orientare le lotte e se queste fiammate di rabbia nelle città possono essere delle nostre certo. occasioni, ecco. Vengono reinterpretate in maniera intelligente. Allora, altre due informazioni: se domani comunque è previsto, insomma, c'è un qualche tipo di appuntamento presso il tribunale per chi di Piazzale Clodio, per chi volesse comunque portare la sua solidarietà anche in maniera corporale, insomma, con la propria presenza lì, e se ci sono attive delle casse, delle iniziative di solidarietà a sostegno delle spese legali a cui sono costretti, appunto, che pesano sulle spalle di questi compagni e questi compagni. Allora, domani la scelta è di stare in aula. Quindi la Corte d'Appello è un piccolo edificio che si trova dentro il Tribunale di Piazzale Clodio, è in fondo sulla sinistra entrando sul grande piazzale, percorrendo tutto il corridoio si arriva e sulla destra si trova l'aula. La scelta è di stare lì perché i compagni che stanno sotto processo vogliono stare in aula e perché Piazzale Clodio, là fuori, i presidi sono davvero avvilenti, cioè comunque c'è solo la controparte che attraversa quel cortile o qualcuno che è altrettanto inguaiato, non è un momento di comunicazione, diciamo, quindi si sceglie di stare in aula. Devo dire che l'orario potrebbe favorire la partecipazione di molti, perché a mezzogiorno, come dire, non magari sono le 8 del mattino. Cioè, si riescono a ritagliare magari anche un'ora che uno ha di intervallo durante le attività della giornata. E riesce, ma infatti, anche passare, farsi vedere. Dare un abbraccio, cioè, a chi si vive, cioè, un momento abbastanza duro, questo secondo me, come dire, cioè, potrebbe essere un pensiero con cui ci si sveglia domani mattina. Per quanto riguarda le casse di solidarietà, dalla chiusura della cassa 15 ottobre è stata attivata una cassa di solidarietà più ampia, si chiama Cassa di Solidarietà La Lima, che ha anche una specifica sul 15 ottobre, e devo dire che la maggior parte dei benefit ad oggi sono arrivati da altre città. A Roma sono pochissimi collettivi che stanno facendo cassa per quanto riguarda i compagni che si trovano nel processo 15 ottobre. Voglio ricordare che comunque ci stanno le parti civili, AMA, ATAC, la banca, i ministeri, che hanno chiesto dei risarcimenti davvero pesantissimi, ma si parla di milioni di euro. Quello che sicuramente speriamo si attivi, dal momento in cui speriamo, cioè, quantomeno sparisca un po' di invisibilità, di silenzio intorno a questo processo, almeno al momento della condanna, che si attivino una serie di iniziative che in questo momento devono permetterci di fare una cassa piuttosto importante per arrivare alla Cassazione in maniera preparata e non con la rincorsa e l'affanno, ecco. Va bene, allora non facciamo che rilanciare i tuoi appelli, e magari se riusciamo domani metteremo anche i link delle varie casse, insomma, riferimenti perlomeno sul podcast della trasmissione. Grazie mille. E poi ci aggiorniamo, sì, insomma, domani. Sì, senz'altro, poi quando avremo notizie per radio cercheremo, ecco, di darle il prima possibile. Va bene. Ti ringrazio. Grazie ancora e buonanotte. Ciao. Ed eccoci qui, siamo in diretta con la compagna che appunto ci ricorderà che domani ci potrebbe essere la sentenza del processo d'appello per uno dei tronconi del processo del 15 ottobre 2011. Ci sei? Sei in ascolto? No, non è in ascolto perché non l'abbiamo. Eccoci. Scusa, ti ho tagliato le prime cinque parole, se poi. Non ti preoccupare, la ringraziamo voi, quindi niente di più.

allora siamo in onda senza base, quindi iniziamo così. Sì, iniziamo così, anche perché dopo le parole di Giulia serve anche un po' di decompressione per andare su argomenti più leggeri. Intanto volevo dare un abbraccio a tutti i compagni e le compagne sotto processo e fargli sentire la mia vicinanza. La nostra vicinanza, e per quanto possiamo con il mezzo radiofonico. E poi c'è proprio una cosa che ci chiedevamo, di adesso faremo questa introduzione così, insomma, riguardante un aggiornamento riguardo a queste lunghe stagioni di processi, eccetera, eccetera. Poi dobbiamo introdurre invece un evento che forse non ha niente a che fare, però appunto poi diceva: no, guarda che invece i punti di attinenza ci stanno, stiamo parlando di robe, insomma, a parte domani, la data del 12 dicembre, già abbiamo trovato l'aggancio con forse la traccia più celebre, più quotata dei V38 Punk. Mm-hmm. Il primo pezzo, l'unico di cui ho composto anche la musica. Vedi. Vabbè, insomma, dai, cominciamo allora a introdurre la serata, poi magari ci sarà modo anche in quel del luogo dove sarete di rilanciare magari qualche tipo di ma quello di notizia, è in dubbio riguardo. Poi insomma stasera tu mi hai promesso avrete gli esiti, diciamo che ci saranno sicuramente in quel momento molto probabilmente gli esiti dei processi, e quindi avrete modo anche in quella sede di ricordare quelle giornate e di ricordare gli esiti processuali, insomma. Questo senza dubbio, questo una Nacht der prosovietischen Punks o serata di punk filosovietico non può esimersi, comunque, per quanto sia un momento di festa, dall'avere un risvolto serio, dall'avere anche 5 minuti di riflessione. E sì, poi un po' la vostra dannazione, insomma, comunque in ogni caso. Sì, per una sera che siamo pagati. invece poi alla fine si va a finire sempre sulla divulgazione politica, insomma. Ma parte questo è la nostra ragion d'essere, cioè. Poi a parte questo, potrei suonare con Leopoldo Mastelloni, però quella è un'altra cosa. È da venire, non è al momento nell'agenda attuale. Non è da venire, però. Cominciamo a parlare un po' di come nasce questa vicenda, quanto tempo fa. Io intanto ti metto una base che, guarda caso, è CCCP dannata, ovviamente. Ma nasce in un'altra serata di lotta, nel senso, quando, anche accompagnati da eminenti esponenti di questa radio, andammo a Modena, sotto il palco, mentre stavamo preparando gli strumenti per suonare in un benefit, guarda caso sempre a dei compagni sotto processo, portassimo sfiga, mi sento chiamare: Marco, Marco! In tutta la sua bella tiposità vedo Danilo Fatur dei CCCP. E Danilo è una persona strepitosa, cioè Danilo è una persona che abbiamo conosciuto così una volta per caso e ci è venuto a vedere a un concerto. Noi siamo punk filosovietico, il punk filosovietico, Danilo è una delle persone che se l'ha inventato, e gli faccio: Dani, ma vieni a far sparaglioli sul palco con noi. Senza farselo ripetere due volte, Danilo inforca due guanti strani, mi ricordo che erano fosforescenti, in stile Fatur, un paio di occhiali di saldatore, gli mancavano le molle, il cappello quello con le molle in testa, ma poco ci mancava. Sale sul palco e ci facciamo una bellissima sparagliuri, parliamo tutta la sera e nasce che sia, cioè, voi l'avete fatto, noi l'abbiamo continuato sto punk filosovietico, facciamola una serata del punk filosovietico. Ma il punk filosovietico si ferma ai V38 Punk attualmente nella scena italiana? che tu sappia, o c'è qualche guarda, allora, esplicito emulo? Intanto c'era un gruppo, una volta mi capitò di vedere un gruppo, I Saccheggi e Festeggia, che faceva le cover nostre peggio di noi, il che sì, tutto dire. Quindi se erano peggio dal punto di vista punk, erano meglio. Erano molto meglio. Acquisto... Ma non avevano lasciato recapiti, se no l'avrei chiamati. Ci stanno varie band. Vabbè, sì. Diciamo post CCCP, CSI, io spero che vadano oltre la tribute band, ecco, spero che vadano anche a una produzione loro, perché noi in 29 anni abbiamo fatto 3 cover, di cui 2 dei CCCP, ma il resto è tutta roba nostra, come si suol dire. Anche perché poi il punk, sì, è vero, rubo, saccheggio, faccio mio, cambio, modifico, vedo di fare quello che voglio con la tua roba, ma metto in gioco anche la mia, quindi non mi limito a essere il jukebox di un altro gruppo. Per carità, all'inizio l'incipit, alla radice è quella dei CCCP, ma noi anche nel corso degli anni dai CCCP ci siamo discostati. Sì. Certo. Anche molto. Adesso io in P38 Punk sento tantissimi Dead Kennedys, per esempio. Quindi insomma, senz'altro il punk appunto è poi quella roba che sì, si va dove si vuole, tutto sommato, insomma. Poi col fatto che noi stessi, no? All'epoca sì, non facevano proprio il punk 77, tutt'altro, l'introduzione a batteria elettronica, c'era quasi della wave dentro, della sperimentazione, delle cose che non erano, forse fu quella. Quello che era fondamentale era la fascinazione estetica, nel senso il preferire l'acciaio alla plastica, l'anfibio alle scarpe alla moda, il resistente all'effimero, e riempire comunque questo contenitore che è il punk di contenuti, cioè di cose che secondo te vale la pena di dire, secondo te sono battaglie anche da portare avanti, il che non esclude momenti di gioia. Abbiamo fatto anche pezzi cazzoni, certo, che ancora ci perseguitano. Va bene, noi avevamo, e poi sì, ecco, vai. Ci sta anche Tenerissimo Bagno di Sangue con Elena Velena, che fu la produttrice dei primi 4 dischi dei CCCP. Diciamo un po' questo è stato l'incrocio, rimettere insieme queste due personalità che erano 40 anni che non si vedevano, assolutamente spinose per certi versi, che c'era un motivo per cui non si vedono per 40 anni, insomma, e ci hanno messo 40 anni per ritornare a incontrarsi. Quindi beh, sì, tutto e ricordare tutta la stagione fecondissima che fu la prima ondata dell'attack punk di Bologna, ecco, con Nabat pure, sì. Disciplinata, Tampax, poi a Milano c'era l'altra controonda con Candeggina Gang, mi sembra. Sì, sì. Guarda, ci abbiamo pronti oggi Candeggina Gang e Tampax. Pronti. Alla grande. Delle prime. Anche tante persone appunto quando parliamo di CP. Dobbiamo glissare su sicuramente almeno un pezzo del CCP attualmente, anche la buona Joe Squillo, insomma, non è che proprio ci ha avuto dei sì, Joe Squillo è ancora più sospettabile. Ha avuto dei svarioni, niente male, però insomma stiamo parlando di storia, quindi rimaniamo alla storia, ecco. Allora, avevamo pronta invece proprio per ecco. Pian pianino andare. Visto che siamo in tema natalizio ormai, e visto. Aspetta, regà, vi dovete comprare Scarceranda. Esatto. Cioè, siamo in tema natalizio, siamo tutti più buoni. Anche Scarceranda quest'anno è più buona, ma solo se la comprate sotto Natale. Certamente. Allora, gli spottini di Scarceranda li abbiamo già mandati, adesso mandiamo un altro spottino. L'anno prossimo lo fa Leopoldo Mastelloni, l'anno lo spottino. Lo fa Leopoldo Mastelloni. Partirà? Partirà? Non partirà, non si sa. No, è partita già. Ah, accidenti. Queste sono. Ma c'è l'audio? Sì. La mandiamo da capo, direi. Vai. Zanzara Khmer su Torino. Zanzara Khmer su Milano. Zanzara Khmer su Firenze. Le zanzare sono tante, le zanzare sono amore, le zanzare in amore. Le zanzare di Pol Pot. In precedenza un compagno ci chiedeva delle iniziative del riguardo 12 dicembre, appunto la compagna intervenuta prima diceva che probabilmente iniziative in piazza non ce ne saranno, non, almeno non ne abbiamo contezza qui a Radio Onda Rossa. Però ci stanno del più iniziative il 12 dicembre in essenzialmente tre posti diversi qua nei dintorni, più una presentazione di Scarceranda che, dato che cadrà il 12 dicembre, non mancherà comunque di affrontare anche in questo caso questa data storica. Senti Mao che fa don don. Che insomma è un po' dimenticata, che in realtà poi invece fa luce sulle vicende di questi anni. Che fa gli anni? Produzione industriale comunista. Produzione industriale comunista. Produzione industriale comunista. Produzione industriale comunista. Senti la pressa che fa boom boom. Senti martello che fa bang bang. Senti la pressa che fa boom boom. Senti martello che fa bang bang. Senti Mao che fa don don. Senti Mao che fa don don. Senti Lenin che fa Stalin. Senti Stalin che fa Lenin. Senti Lenin che fa Stalin. Senti Stalin che fa Lenin. Allora tra l'altro pure con mezzo microfono alzato, vabbè, vabbè. Allora dicevamo innanzitutto sì, si aggiungono cose alle allora, 50 anni dalla strage di Stato innanzitutto. Proiezione del film 1212 Piazza Fontana. Non riusciamo a leggere perché ormai siamo estremamente poveri di vista. Matteo Bennati e Maurizio Scarella, 12 dicembre alle ore 19. Alla proiezione seguirà un dibattito con Roberto Garganelli, Emilio Bagnoli, Enrico Di Cola, Lella Valitutti, Francesco Picche, Ezio Modugno e Martina Lampronti. Questa roba qui appunto domani 12 dicembre alle 19:30 al Cinema Palazzo. Poi nell'ambito invece dei 32 anni di occupazione, il compleanno dei 32 anni di occupazione dell'Ipo di Marino, del centro sociale Ipo di Marino in via del Giardino Vecchio 1, il 12 dicembre. Incontro e dibattito appunto a 50 anni dalla strage di Piazza Fontana, a partire dalle 17:30, dibattito e a seguire cena sociale, quindi ancora all'Ipo, dove con alcuni dei protagonisti delle lotte di quegli anni si racconterà a loro memoria, insomma, quegli anni, quei momenti, e si avrà modo anche di discutere. Il compleanno di Po all'amore e alla rivoluzione 1987-2019, appunto domani 12 dicembre, quindi a 50 anni dalla strage di Piazza Fontana. Senza in giro di passo, non mi tira il sexo. Senza in giro di passo. Invece il 13 dicembre ancora si parlerà di strage di Stato, 12-12-1969, Piazza Fontana, strage di Stato, Pinello assassino, venerdì 13 dicembre 2019. Dalle ore 18 mostra dei manifesti storici, proiezione del film 12-12 Piazza Fontana, che è quello poi anche del giorno precedente al Palazzo, di Bennati e Scarcella. Interverranno Enzo Modugno, Valitutti, Migliucci e gli altri ex del gruppo 22 marzo. Alle 22 Teatro Forte presenta La prova del 9 di F. Massi, a seguire Montelupo in concerto, il tutto il 13 dicembre a Forte Prenestino. Insomma, questi un po' sono gli eventi a Roma, almeno quelli più pubblicizzati, che ci ricordano di questa data storica. Mi fa sentire cose freak, far l'amore on the beach. Mi fa sentire cose beat, fare sex on the beach. Mi fa sentire cose freak, far l'amore on the beach. Mi fa sentire cose beat, fare sex on the beach. Nei palazzi d'inverno la rivoluzione è una questione di sangue, e non ci sono mani che resteranno pulite. La rivoluzione è la necessità di bruciare i giardini dell'innocenza perduta sotto cieli di piombo, di vampa, sopra fiumi ghiacciati. L'ottobre sta arrivando. L'ottobre sta arrivando. L'ottobre sta arrivando. L'ottobre sta arrivando. L'ottobre sta arrivando. Il tuo professore portava giacca e cravatta e criticava i tuoi jeans. Erano stravaganti per lui. E non sapeva che anche il suo completo scuro era un costume. L'unica differenza tra noi e voi è che noi sappiamo di essere in costume. Allora, ci arrivano nel frattempo delle notizie che però non confermiamo. Per me è un cazzaro. No, vabbè, non lo sappiamo. No, magari no, no. Però io ribadisco. I media ufficiali non riportano quanto ci è stato riferito. Quindi... Beh, sono cazzati pure loro, eh. Ecco. Quindi, vabbè, per ora non diciamo niente. Clash of Titans. Attendiamo. Nel frattempo noi attendiamo invece un'altra cosa che ci dovrebbe arrivare, che però non è ancora arrivata, non perché arriva. Danilo invece in che cosa era occupato questa sera? Danilo stasera è occupatissimo. Sì, Danilo è sempre occupato, cioè lui c'ha la disciplina del nulla, quindi come tutte le persone, te che ne sai, te pratica disciplina del nulla, che ridi, no, che ne sai. No. Ma io manco è troppo pieno, diciamo. Ecco, però. Io manco ci provo perché so che è una cosa che occupa parecchio. Però a parte scherzi, stasera Danilo esordisce, dovrei essere pure un po' geloso perché speravo che fosse il 13, con questo nuovo, suo nuovo progetto, gli Zug, zona utopica autogestita, no, zona utopica garantita. A Milano mi sembra, se non erro. Sì. Noi... Che tra l'altro andiamo subito a preparare perché su Bandcamp c'è una versione ascoltabile. Sì, diciamo che di tutti i progetti di Danilo questo è quello che per quanto ci sia molto figo. Una prevalenza di suoni elettronici è quello che richiama molto di più le radici CCCP. E poi va detto, Danilo sicuramente di tutti gli ex CCCP è il più fedele alla linea. Assolutamente. E vabbè, ancora non so. Tra l'altro, tra cose che ci devono arrivare qui, cioè, ci è arrivata una mail che ti ho fatto vedere dove ci saluta e ci fa gli auguri. Annarella Giudici, benemerita subretta del popolo, tutto me sarei aspettato. Sì, va dato merito a Marco, insomma, che si è dato da fare veramente in questi mesi per cercare di rimettere insieme i pezzi che stanno bene, benissimo, anche tutti separati, soprattutto uno. Soprattutto uno, ma d'altronde ha vista la Madonna, quindi sì. Non facciamo ulteriori commenti, anche perché poi alla fine significa dargli pubblicità. Insomma, ognuno fa scelte su, ognuno è libero di fare quello che gli non pare. Lo nomino, cioè, non è che a noi ci interessa più di tanto. Noi andiamo dritti per la nostra strada. No, anzi noi non, cioè, andiamo dritti se per uno la nostra fa cazzate mirata. Nel presente massimo, sì, cioè se uno ha un presente del merda non vuol dire che non abbia avuto un grande passato, sì. Ma poi anche la nostra strada non è per niente dritta, è piena di curve, è tutta storta, quindi noi andiamo storti per la nostra strada. E avevamo citato poco fa un po' di punk dannata della fine degli anni 70, e erano i Tampax e poi ci stavano i Candeggina Gang, che diciamo chi era la cantante, che no, anzi facciamo un gioco: se qualcuno è in ascolto e riconosce la cantante, telefona e vince. Che vince? Niente. Vince niente, no, vince una canotta usata di Danilo Fatur. Benissimo, sì, che ti come venerdì ti viene e noi gli daremo una canotta sudata di Danilo non Fatur. Non hai difficoltà a procurarti. Allora, Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza e vai, Tampax. UFO Dictator. '79 Tampax, UFO Dictator, Candeggina Gang, 1980. Orrore. Orrore. Chi è la cantante? Orrore, orrore, mi fai morire. cantano in coro, tutte tre o quattro, quant'erano? Tre, credo. Quattro. allora sicuramente documenti d'annata, insomma, si sente il suono sia nelle registrazioni, insomma, su CD, poi rifatte, rimasterizzate, rimesse. Pensa che oggi fare questo tipo di suono è diventata una ricercatezza, devi fare riversamento. No, devi fare riversamento analogico. Sì. Vabbè, questo invece è un altro documento che era I Morti Reggio Emilia Raff Punk. Con Steno al basso, eh? Sì. Steno dei Nabat. Con Steno al basso dei Nabat, quindi i documenti. Non capivamo nulla, noi no, sicuramente perché eravamo troppo piccoli, insomma, quindi eravamo poco più che infatti. Io avevo 3 anni. No, vabbè, io ce n'avevo un po' di più, però diciamo in età preadolescenziale si facevano le prime. Vabbè, erano anni particolari, insomma, era un altro mondo veramente. Però insomma non abbiamo detto chi era la cantante dei Candeggina Gang. No, 0649 1750, manco lo diciamo. Perché poi diciamo noi glissiamo come per l'altro personaggio. Vedete se trovate la personaggia in questione dei Candeggina Gang. Io qui ho mandato qualcosa, però non so che cosa. E in realtà non volevo mandare questa roba qui. Infatti, e ci credo. No, è partito. No, invece sono carine. Cioè, sono carine. Ma non questa roba qua. Eccolo qua, quello che volevamo mandare. Sì, perché abbiamo un po' così andato a delineare quello che poi invece venne chiamato più o meno l'anarcho-punk di quell'epoca, che si distaccava, appunto abbiamo citato il concerto dei Clash del 80, non so che sì. Anno fosse a Bologna, e quindi di questa divisione spaccatura, per cui stazione Clash che suonavano per il PC. Che suonavano per il PC e avevano pure loro, insomma, erano entrati nell'ambito delle etichette delle grandi major. Questo invece è più una cosa più recente, di qualche anno fa, loro si chiamano Livore, io direi di ascoltare da capo, sempre a Narcopunk, e questa è Ignavia, quindi da capo Radio Onda Rossa 25 o'clock. Oh! came to the conclusion through the autopsy investigation that the written line of death was suicide. Citazione per citazione, ascoltando di Livore, Marco ti ha beccato una citazione della compagna Ulrike Meinhof, e quindi avviene da solo Ulrike Meinhof degli Erode, irriconoscibili Erode, solo per gli appassionati. Ah! tiene Ulrike. Non rinchiude i tuoi sogni. Allora, altro gruppo che in questo caso non è proprio esattamente filosofiatico, però si chiamano DDR, vengono... Ma filosofia è una questione anche di contenuti, sì, e di estetica, e queste ci stanno, ci tutte. Potremmo essere. Mi facevano sculettare adesso. Da Fucecchio Firenze, era un bello che spettacolo. Brutto no, brutto spettacolo, ma che sculetto. Sì. No, no, vabbè, è un bello spettacolo, nel senso sempre grazie, punk. Grazie. Ah, è punk, è veramente punk. Allora, nel frattempo mettiamo, credo, l'ultimo lavoro messo su Plastica. Il penultimo, sì, perché poi ci sono i due singoli, però Marionette, Plastica, no? L'ottobre sta arrivando, ancora no, perché sia allora, quei nostri tempi, di lavorazione filosofica. Mettiamoli e ci, tanto insomma, durata un po' il disco, sono le celebri sei tracce di 38 pack da lì non sforano. Li mandiamo e poi diciamo un po' di altre cose, dai, e poi ce ne andiamo perché domattina guadagnare la stozza, quindi... pure io. accidenti. La vita è dura, eh. porca miseria, mi hai fatto sentire un lasciato. E miseria non finisce. Beh, te mi hai fatto sentire le scorse volte l'internazionale da parte di una metal band cinese o qualcosa di. Sì, che... ma ti ho fatto sentire pure i Gorky Park. Gorky Park. Che noi tutti volevamo scordare, io generosamente ho riproposto. No, no, non è che volevamo, l'avevamo proprio dimenticati. C'eravate riusciti, sì. Voi, io non ci sono, mi hanno scioccato. Anche a Leopoldo Mastelloni. No, Leopoldo Mastelloni è bannato. Allora, P38 Punk, che dicevi te, tempi biblici per qualsiasi cosa, insomma, tutto. Mai è giusto così, ha tutto fatto su piani quinquennali. Cioè, la serata di punk filosovietico è iniziata sono... a giugno, io lo sapevo. No, è iniziata a giugno prima. La lavorazione pratica, la prassi. La teoria partiva da 2017. Quindi... E invece che cosa, dove sono approdati P38 Punk dopo anni di WordPress? Filosofietici. No, WordPress rimane, tant'è che poi quell'account è collegato al sito in WordPress. Però, ahimè, tempo di social, tutti, social, dovete parlare. Continuiamo a non avere una pagina ufficiale Facebook, anche perché tutte le magagne orgogliosamente tutte le magagne di Zuckerberg sono note e ovviamente finiamo, essendo filo sovietici, sul russo VK. Ora non è che faccia meno schifo come social di Facebook, però un vecchio adagio dal punto di vista estetico è più combacia di più. Combacia di più. E poi, come diceva un vecchio adagio, il nemico del mio nemico è mio amico, poi diventa mio nemico non appena faccio fuori il nemico precedente. E quindi, anche solo per fare un dispetto a Trump e a Zuckerberg, meglio spiati dalla Russia che spiati dagli USA, che comunque ci spiano uguale, quindi. Ci spiano lo stesso. No, a me no, perché io c'ho gli 8007. È un'impresa, è più un costo che un risultato. Va bene. E l'account è vk.com/p38punk. L'interfaccia è come la prima interfaccia di Facebook, cioè ruzza come poche. Però insomma, alla fine sì, quasi un MySpace, però con la tendina che scorre, insomma, vabbè. Andatevela a guardare. È russo. Anche perché poi ci stanno tutti i riferimenti per la serata, un po' di tracce sì, di quelle che abbiamo ascoltato. E poi qualche stasera, ricordo. Qualche ricordo. Ah, sì. Vedi, mi stavo dimenticando, vabbè. Dunque, sì, andando a scorrere sul VK, a un certo punto c'è una fotografia. Allora, no, ce ne stanno tante di fotografie. C'è pure il ricordo di Engels che nessuno ha fatto, pochi giorni fa. C'è una foto di Engels. Pochi giorni fa, penso, una delle prime foto, un daguerrotipo, insomma, no, c'erano già le fotografie a quell'epoca. Anziano Engels, lì è morto tardi, poi sappiamo dopo Marx, sì. Insomma, quindi 10 anni dopo, più o meno, che mi ricordi io. Ah, eccola qua, c'è una, aspettando il 13 dicembre, oggi... Pensiamo sia bello caricare un pezzo alla nostra storia, lo vuoi dire te, insomma? Ci sì, sta, ma sta io ho lo schermo spento. Vabbè, ah, perché lo devo leggere, no, però. È che no, leggi? No, perché a memoria devi andare. Che ci sta una fotografia. Allora, una fotografia con un ragazzo con i capelli lunghi, chi è? Quello davanti so io con la cresta. Sì, sì, esatto. Poi dietro con i capelli ancora più lunghi c'è Maurello che quindi poi finì. C'erano i capelli un tempo. Sì. Tanti anni fa. No, adesso di meno ancora un po' resistono. Tutto il nome della resistenza. E c'era anche un Maurello che poi finì nelle colonne infame. Quella era la prima formazione dei P38. Era il lontano 93. Stavamo al tenda strisce, c'erano gli statuto. C'è sta scritto dietro: no al razzismo, no all'autoritarismo. Sì, suonavamo per la concorrenza vostra. Sì, sì, no, radio proprietaria dell'epoca. No, era già Radio Città Aperta. Radio Città Aperta, ok. Ma guarda, le volte in quei periodi storici avevamo anche dei rapporti, si facevano anche dei punti radio delle volte, insomma, in talune circostanze, altre volte invece si scazzava di più, però insomma, come dire, amore forse mai, odio forse nemmeno, però rispetto. Rispetto, screzi, dibattito politico, qualche volta qualche pizzone, insomma, magari in epoche precedenti, comunque, questo è. Due sberle tra compagni ogni tanto sì, fanno anche sì, bene. Sì, sì, sì, sì. ti danno un po' la sveglia. Abbiamo sentito pure delle relazioni su quello che è il movimento cileno, insomma, che è fighissimo, la paura, insomma, piazze piene, piene di significati e piene anche di spunti per noi, però anche tante botte, tante pezze, tante divisioni, molti nemici, molte botte. La dialettica, quella che tutto il mondo ci invidia. E quella lì, che foto siamo andati a trovare, e quello era il primo concerto su un palco grosso che noi facevamo dopo, all'epoca tantissimo stavamo al vecchio Breakout, poi c'era il Blitz, insomma, posti comunque occupati, era la prima situazione con un palco grosso, un sacco di gente, ci stavamo cagando sotto. E dici che dicevi prima una cosa, ci era la prima volta che come gruppo, tra virgolette, diciamo, non noi, però eravamo associati ai gruppi importanti, avevamo libero accesso al bar e non lo sapevamo. Io vado al bar del Tenda Strisce per comprarmi una vodka con le 5.000 lire in mano dell'epoca, credo 2-3.000 lire, era molto. E lei fa: no, guarda, il gruppo è gratis. Tu cazzo, dammi la bottiglia. E mi chiusi. E per quel motivo adesso non si fa più questa roba e si dedica a una parte. Che altrimenti. Mi ricordo che praticamente mi chiusi nel camerino, io la bottiglia, una persona che poi è rimasta per tanto nella mia vita, ancora, cioè, come grandissima amica, a finircela. Quella bottiglia, salì sul palco talmente ubriaco che l'unica cosa che ricordo nettamente è che prima iniziò a suonare crollai sul microfono. Perfetto. Però è passata la paura? Sì, no, poi sono riuscito anche a, mi dicono che siamo riusciti anche a suonare. Non ricordi bene. No, dicevi che proprio inizio fuori onda, prima della missione, citavi questo fatto della paura e del palco, insomma, la paura, sì, della strizza, dell'emozione. Questa, cioè, questa occasione poi particolarmente, perché è una situazione che da tanto sognavo, è una situazione poi alla fine che è anche una pietra angolare della nostra storia, diciamo che è una sorta di realizzazione di un complesso di Edipo, di uccidere i propri genitori tramite la musica, in questo caso quando i propri genitori sono i CCCP. E ovviamente amorevolmente, di norma io sono sempre terrorizzato, me lo dicono tutti, sono isterico prima dei concerti, mi isolo, mi metto da una parte, fumo 4.000 pacchetti di sigarette e sì, fino a che non parte la prima nota io sono terrorizzato, e penso che il giorno, no, dopo 29 anni sono sempre più convinto, il giorno che smetterò di avere paura prima di salire sul palco sarà il giorno che io capirò che dovrò smettere di suonare. Per i 30 anni disco nuovo? Sì, i nostri tempi filosovietici, cioè siamo già a due tracce, stiamo lavorando sulla, ci abbiamo provato la terza, stiamo lavorando da quest'estate. Va bene. Siamo fiduciosi. Se il comitato centrale lo permette. Va bene. Se non ci sono mozioni contrarie nel comitato centrale. Va bene, ma è un fatto, sì, vabbè, è un fatto burocratico, tutto sommato. Burocrazia. È fatto burocratico nei PIT 38 ognuno deve dire la sua. Certo. E quindi spesso chi ha detto una cosa all'inizio ascoltando gli altri, poi in corso di discussione cambia idea e quindi si ricomincia tutto da capo. Perfetto. E quindi niente. E quindi ci mettiamo un anno per fare sei tracce, ecco perché sono sei tracce. Allora, invece, continua col 6 per dire che quasi 60.000 persone in Italia sono detenute, circa 2.000 sono a Rebibbia. Questa società si illude di rieducare con il carcere, con la vendetta della privazione delle libertà, pretendendo di fare giustizia. Sappiamo bene che quello che ci dà lo Stato è sfruttamento, oppressione ed esclusione. Il carcere, con la sua violenza e la sua pervasività, riguarda anche chi è fuori, perché è uno degli ingranaggi con cui si mantiene in vita una società che ha la sopraffazione dell'ultimo come norma. il 31 dicembre 2019 saremo sotto Rebibbia per dire che non accettiamo la divisione che quelle mura vogliono imporci, per parlare con chi è dentro e per festeggiare insieme a chi è reclusa l'arrivo del 2020 che vogliamo senza più galere. L'appuntamento è alle ore 11 a via Bartolo Longo, dove manterremo un banchetto e mangeremo qualcosa insieme. Da lì partiremo, come ogni anno, in corteo per andare al Pratone del Femminile e dare il nostro saluto a chi passerà il Capodanno in carcere. Ovviamente non possiamo che invitare P38 Punk, tra l'altro quest'anno mi siete anche più vicini, perché avendo il negozio a Monte Rotondo va bene, rispetto al Pontino è molto più vicino. Potrebbe essere che... Anche perché poi il 31 si chiude presto. Sì. Si fa mezza giornata. Ah, certo, quindi la potresti fare, sì. Sì, il 31, perché insomma lì di solito fino alle 3, alle 11 si comincia, insomma, quindi se riesci un piatto di lenticchie potremmo farcelo. Sì, ma molto volentieri. Anche perché poi, come parliamo spesso, diciamo, a parte la questione del Donbass che ho fatto mia, anzi abbiamo fatto come P38 nostra in questi ultimi anni, un tema di fondo che sempre rimane sia con P38 che come militanza personale è quello dei compagni in carcere, una particolare attenzione ai compagni in carcere. Benissimo, allora con questo io credo che possiamo dirci arrivederci a mercoledì prossimo. Ma metti Leopoldo Mastelloni? No, Leopoldo Mastelloni no. Ovviamente fra i tanti appuntamenti che abbiamo detto, il 13 dicembre Fado P38 Punk, Elena Verena X-Men via live al Falfulla 5A. Insomma, mettiamo Trabant Punk per salutarci. Trabant Punk per salutarci. Che secondo me è il pezzo più bello che Fatur ha fatto da solo. Allora aspetta, facciamo. Io lo definisco, e lui mi ha dato ragione, un requiem per i CCCP. Ma la vuoi la... Il remix. Il remix. Allora. No, sta su VK. Ah, vedi. Dove ce l'hai? Più sotto. Fatur and Fax. Più in sotto ancora? Sotto. Sotto. Ma te dove come fai a guardare? Sul riflesso del quadro. Sotto. Non è questo? No. Sotto dovrebbe essere il prossimo, eccolo. Questo, Trabant. Allora, noi vi diamo appuntamento a tutte e a tutte. Domani palinsesto della radio. Casomai mettiamo sotto un attimo per fare la chiusura, dai. Il pezzo più Fatur dei P38. Allora, dicevamo, sì, giovedì 12 dicembre, presentazione di Scarceranda, pure quella ce la mettiamo, non l'avevamo raccontata, Strike SPA, spazio pubblico gestito, mio Umberto Partini, 21 Roma. Un saluto a Raffaele, a tutti i compagni dello Strike, Scarceranda 2020, l'agenda contro il carcere autoprodotta da Onda Rossa, dalle ore 19, presentazione dell'agenda a cura della Onda Rossa, a seguire cena, che a Strike vale sempre, e DJ set nel pub di Strike. Invece lì, appunto, i compagni e le compagne detenute, lì, i compagni e compagne, e la popolazione, proletariato detenuto, come dice il buon Mortimer prima di noi, un saluto a loro, in particolare a tutti i compagni e le compagne comunque soggetti alla repressione, compresa quella del 15 ottobre di cui abbiamo parlato inizio trasmissione. Non mi sono perso del tutto, dobbiamo ritornare indietro e andiamo al palinsesto di domani, che ricomincia con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, poi redazionale della mattina alle 13 il giornale radio normale, no, che sto leggendo, il giovedì Eccolo. Meno male che l'inizio è sempre uguale. Il giornale radio, lo spazio comunicazione è... Come? Ma adesso stiamo alla fine, non stiamo all'inizio. No, no, no. Di quello del giovedì. Alle 14 spazio comunicazione, alle 14 tutta scena cinema, Attica Blues oltre alla Black Music, Le Schiene del Sole, Bella Martis. Ciao Marta. Mezzedes alle 18, redazione della radio, Tabula Rasa alle 20, trasmissione sui libri, e poi Apostasia, i cuginetti di Apostasia alle 23, dai. Rabat Punk Remix, il pezzo più fato, anzi più P38 di Fatur. Io non c'è, Radio Mosca dice che la stella rossa. Qui ci eravamo dimenticati assolutamente una colpevole mancanza. Zona utopica garantita. Quattro punk era più facile da dire. Mo me lo dici te come si chiama sta roba? Kebab traume. Da capo, dai. E noi ce ne andiamo. Dopo Kebab Traume. Traume sotto la luna comunista. Quattro pan sulle mini. di retromarcia, occhio alle luci di retromarcia, occhio alla luce di retromarcia, occhio alla luce di retromarcia. Una gomma bucata, non posso scappare lo stesso. C'è il cantante con la cresta, c'è il cantante con la cresta, c'è il cantante con la cresta, c'è il cantante con la cresta. Quattro punk, quattro punk, quattro punk. I'll share our dreams under a communist moon.